fosse yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io soffro di un insostenibile paradosso. Per un paio d'anni circa sono stato tartassato e spezzettato dal pubblico della radio perché accusato di occuparmi troppo di vite parallele, di mondi virtuali, di realtà informatica, e tutti giù a dirmi: ma noi abbiamo ancora piacere di toccare le cose, conosciamo attraverso i nostri sensi, amiamo la cara e vecchia carne. Beh, adesso vi ho accontentato. Il fine settimana guardavo un po' di messaggi che mi sono arrivati nella casella email di melog@radio24.it e ho visto che tutti dicono: ma cosa fai, ci ricordi che abbiamo un corpo? È vero, abbiamo un corpo, ci parli di carne, ci parli di peli. Beh, oggi invece vado avanti. Oggi vado avanti perché, visto che venerdì abbiamo parlato di tracce digitali, di segni impalpabili delle nostre passioni e anche delle nostre abiezioni che lasciamo attaccati nelle nostre appendici elettroniche, oggi scendiamo e parliamo di tracce organiche. È inutile che noi cerchiamo di nascondere le nostre tracce organiche. Noi in fondo abbiamo un corpo e come ci muoviamo lasciamo una scia, come fosse la bava di una lumaca. E questa scia molti devono guardarla, riconoscerla, e sta alla nostra buona educazione, al nostro senso dell'igiene, alla nostra correttezza, oltre l'aspetto esteriore, i bei vestiti, i bei odoranti, i bei fondotinta, non lasciare tracce sgradevoli del nostro passaggio. Voi umani mi fate ribrezzo, siete la somma di ogni meschinità e vigliaccheria, e vi puzza anche il fiato. Questo era il mesto punto di vista dell'avatar, dell'essere reale dentro il computer, e guarda gli umani. Gli umani che stanno davanti a quella tastiera in realtà sono pieni di nefandezze. Questo mi conferma questa mattina un gruppo di ascoltatori che mi sta seguendo via Facebook e mi dà subito i primi segnali delle tracce organiche che hanno attorno. Cristina mi dice: non lontano dalla mia triste scrivania ci sono liquami ambulanti che credono di essere persone, peccato non poterli invitare in trasmissione col teletrasporto. Laura riprende questo messaggio e dice: liquami ambulanti e fluvi fluttuanti, tracce solide della presenza ameboide in etere di alcuni colleghi. E Gianluigi invece riporta a un tema diverso, dice: tracce schifose sono quelle che deturpano l'ambiente, anche morale, le altre sono solo indicatori di vita e forme di comunicazione. Ci sono forme di comunicazione volontarie, consapevoli, che sono alcune tracce che noi diamo di noi stessi, alcuni segnali, il nostro profumo, il nostro taglio di capelli, il nostro vestito. Ci sono anche delle tracce che magari noi non vorremmo lasciare. Ti racconto che lavo le lenzuola, ma poi contro luce ci resta l'alone. Lui sempre lo nega, ma non sono balle, che l'uomo più invecchia più si ingrassa la pelle. 800 24 00 24. Questa mattina non servono esperti, tutti sono esperti delle tracce organiche del nostro prossimo, dei nostri cari, degli sconosciuti. Avete sentito la storia della casalinga, che ha sempre questo annoso problema che gli uomini non si lavano, più passa il tempo più si ingrassa la pelle e lasciano l'alone sulle lenzuola, non si cambiano il pigiama, non si cambiano la maglietta. Sono piccole nefandezze quotidiane, grandi nefandezze quelle che ogni giorno noi conosciamo avendo contatto fisico col nostro prossimo, negli autobus, nelle metropolitane, ma anche nelle riunioni d'ufficio. Capita di vedere quegli acchittati damerini dei nostri colleghi, poi si osserva la linea nera che hanno sulle loro unghie e si osserva il loro calzino scalcagnato e si osserva la pezzata di sudore sotto l'ascella e ci si rende conto che, ahimè, sì, siamo umani, o forse è una fortuna che siamo umani, lasciamo tracce. 800 24 00 24. No, forse un'esperta ce l'abbiamo questa mattina. Abbiamo preso come indicatore delle nostre nefandezze una persona che ci coglie nei momenti in cui abbiamo meno preoccupazioni di porre un argine alle nostre tracce organiche. Facile è quando si esce per un appuntamento galante mettersi sempre in ordine, essere sempre a posto, essere sempre perfetti. Facile soprattutto quando abbiamo avuto, come è capitato alla nostra generazione, madri e padri maestri che ci raccomandavano: nonne, cambiatevi sempre le mutande prima di uscire, perché se succede un incidente vi portano al pronto soccorso, almeno siete puliti. Perché era più importante non avere la sgommata sulle mutande piuttosto che avere un braccio cioncato. Beh, ecco la nostra esperta. La nostra esperta, la cameriera Anna, che è colei che vi guarda quando non ve l'aspettate, colei che giudicate di rango umano talmente infimo che non vi preoccupate che possa essere ogni giorno la persona che raccoglie e butta via le vostre nefandezze. Mi chiamo Anna, ho 33 anni, lavoro in un albergo, sono la governante, pulisco anche le camere. Lo faccio da 8 anni sto lavoro. Dovessi scegliere un uomo, lo farei prima venire in albergo per un certo periodo, per vedere come si comporta in una camera, per poi portarlo a casa. Lui magari mi racconta: io in casa faccio questo, faccio quello, tipo quando faccio la barba, tutti i pelini, non li lascio nel lavandino. Al momento giusto io direi: guarda che tu sei così, così, così, perché in camera lasci questo, questo e questo. Non ve l'aspettavate? Cominciate a tremare, voi che viaggiate, voi che avete quei fighettoni, borsettoni dove si tengono i vestiti tutti ben stirati, voi che appena arrivate in aereo cominciate a telefonare, vi arrabbiate quando è ora di spegnere il telefonino, voi che appena l'aereo riatterra ricominciate a telefonare ad alta voce, fate finta di impartire ordini ai vostri dipendenti, di entrare in meeting d'affari, di chiudere partite importantissime, di gestire un'infinità di persone, voi con quelle belle camicie, con i colletti alti, con quei bei cravattoni, con quei polsini rigirati e con quel bel gemellino, con quelle giacche di buon taglio, con quei pantaloni sempre stirati, cosa nascondete sotto quando andate in albergo? Il cliente di solito non è mai imbarazzato di quello che lascia in camera, perché lo sa che la camera la pulisce una persona, quindi quando si incontra nei corridoi non è che si fa un pochino di pudore e dice: oh madonna mia, fa niente. Lui è così, così come lo vedi, totalmente diverso in camera. A parte il disordine che lasciano in camera, non so, mangiano le noccioline che sono nei frigobar, te le lasciano in giro così, il nocciolo della mela invece che buttarlo nel cestino che è in bagno, oppure in camera lo sputano nel lavandino. L'ultima volta si è capitato che sono entrata in camera, la camera era bellissima, sta persona aveva solo dormito, ordinatissimo, come se mai si fosse appoggiato sul letto. C'era la porta chiusa del bagno, apro, c'era vomito dappertutto, addirittura le piastrelle del bagno. Ci sono voluti 2 giorni per pulire quel bagno lì, perché anche nelle righe delle mattonelle, anche quello era diventato rosso. 800 24 00 24, cominciate a chiamare. Guardate che io di schifezze altrui e personali posso parlare anche per 2 ore senza fermarmi, non ho assolutamente problema, ma mi piacerebbe avere qualche sentita testimonianza di sgradevolezze altrui, di baluardi inefficaci alle missioni umane. Mi chiama Fiorenzo su Facebook, oggi sono molto più loquaci perché devono scrivere. Parlare di schifezze corporee a voce, tu dire, è un grande tabù. Oggi di tutto si parla di liberazione, di rapporti plurimi, di nefandezze coniugali, di fantasiosi assemblaggi sessuali, ma parlare del proprio sudore, parlare delle proprie unghie, parlare del corpo di una persona che emette anche sgradevolezze, forse non fa piacere a tutti. Beh, dice Fiorenzo su Facebook: non sopporto chi getta i mozziconi di sigarette fumate per terra, lungo le strade, nei water, perché non usare correttamente i posacenere? Invece è interessante, dov'è? Ecco, Federica dice: ma no, perché schifose? Le tracce sono tracce e basta, sentieri fioriti e bave di lumache, l'importante è lasciare il segno. Buona giornata. Non tutte le tracce sono segni, dice Andrea, e ribatte Pino: servono a contrassegnare il territorio. Poi Francesca dice: non capisco perché chiamarle nefandezze, sarò buonista, ma nessuno esente da queste tracce. Siamo o non siamo tutti di carne e di sangue? Non immaginate che vi vediamo come siete dietro alla tastiera, quando pensate di essere soli vi scaccolate, scoreggiate, vi grattate le pudenda, mangiucchiate, sbocconcellate e a volte vi accoppiate, veloci e furiosi. Capisco che è difficile, capisco che è pesante. 800 24 00 24, poi se nessuno chiama, mi dispiacerebbe molto, significa che avete perso talmente il senso di osservare il vostro prossimo, significa che quello che vi dà fastidio ormai l'avete rimosso, l'avete chiuso dentro di voi, non avete il coraggio di parlarne, non volete appoggiare il giudizio sugli altri su questi aspetti così infimi, così minimi, aspetti ormai totalmente esorcizzati dalla società. Guardate, siamo circondati da pubblicità di deodoranti, di sgrassanti, di prodotti che tolgono ogni barlume di umanità, e invece l'umanità più schifosa perché appartiene più all'aspetto animalesco della nostra natura, è quella che riservate per la povera Anna, cameriera d'albergo. Gli uomini, le mutande, i piedi sono sporchi, non mettermele in bagno e me le lasci lì per terra. Le donne sono più sporche in camera. Tu vedi quelle belle donne tutte vestite, sono le più sporche in bagno. Quando si ha il ciclo, noi donne sappiamo che cosa usiamo. Senza vergogna lo si lascia in giro, appoggiato sul mobile, dove di fianco ad ogni water c'è una singola bustina che tu puoi usarla per buttarla nel cestino. Cioè, io mi chiedo, sai che è una donna che ti pulisce la camera? Dico, almeno un pochino di vergogna non ce l'hai. Questo è probabilmente l'aspetto più interessante. Esistono dei luoghi nascosti come se fossero le discariche della nostra umanità. Luoghi che sono presidiati comunque da esseri umani e nessuno sembra avere ritegno o avere vergogna o pudore del fatto che questi esseri umani poi sono addetti alla manutenzione dei luoghi che noi abbiamo attraversato, sui quali abbiamo lasciato così profonde tracce del nostro passaggio. Vediamo se c'è qualche altro messaggio interessante. No, su Facebook non arriva niente, telefonate non arrivano. Vabbè, andiamo avanti parlando, ascoltando quello che c'è. Ah, ecco, perfetto, è arrivato. Gaetano, buongiorno. Pronto? La sento poco. Sì, no, ma io la sento benissimo, Gaetano. Sì. Buongiorno, Nicoletti. Lei è il primo coraggioso che ha il coraggio di parlare di nefandezze, che poi giustamente non sono nefandezze, di tracce del corpo umano, visto che sono così nascoste, così esorcizzate nella società contemporanea, parliamone pure. Allora, io personalmente, per quanto riguarda la mia esperienza, ho una strategia. Quella di essere sempre osservato e quindi sono molto attento alla mia pulizia, a quello che lascio, alle mie tracce. Questo lo suggerisco un po' a tutti. Ma in tutte le occasioni, Gaetano, soltanto nelle occasioni in cui uno ha senso di lusinga nell'essere osservato nelle proprie tracce personali? Sì, direi di sì. Certo, mi può capitare anche di distrarmi, però raramente, guardi. Io quando ero ragazzo, forse molto meno. Però da diversi anni oramai sono molto attento perché, tra l'altro, essendo molto alto, mi sento anche molto osservato dalle persone e quindi forse può essere un problema per me, però sotto certi aspetti mi dà una mano. Ecco, facciamo perché... degli esempi concreti. Quali sono le tracce sgradevoli di sé che evita di lasciare a disposizione del suo prossimo? Prima cosa sono le mani. Sono le mani, anche perché io sono avvocato e quando scrivo in verbali di udienza c'è un collega o una collega che mi guarda mentre scrivo, quindi la prima cosa... La cura delle unghie e delle mani. Le unghie e delle mani sono la prima cosa. Poi se non le dico che cosa combino la mattina quando mi lavo, cioè non sto molto tempo, però curo moltissimo. Però nello stesso tempo non vorrei somigliare a quei ragazzi che ultimamente vedo, molto più giovani di me, io ho 56 anni, che vanno in giro con le sopracciglia curate, tutti abbronzati. Quello è l'eccesso. Adesso... Quelli sono un'esagerazione. Sono le tracce. Lei cerca di avere un buon odore addosso anche, penso. Sì, io uso sempre un profumo da 20 anni, sempre lo stesso, però ne metto poco. E lo metto sempre non sul collo, sui polsi, ma lo metto dentro la camicia. Come faceva Fantozzi? Come guardi, non parliamo di Fantozzi perché abbiamo anche io ho fatto anche un intervento qualche giorno fa quando l'Alberti si permise di dire io odio gli uomini, disse questa frase e l'ho sentita benissimo. Vabbè, ognuno io vorrei tanto rispondere all'Alberti, come si fa ad odiare gli uomini se poi le donne hanno bisogno degli uomini come gli uomini hanno bisogno delle donne? Sì, comunque non è un'odiatrice di uomini, la conosco bene, glielo posso assicurare. La ringrazio, ringraziamo l'avvocato e passiamo a Damiano, mi sembra. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, Ah, dunque, lei... ecco, perfetto. Damiano. Damiano, lei affitta macchine di cortesia? Sì, esattamente. Non so se è esatto. Sì. Quindi lei è un osservatore di tracce organiche lasciate nell'automobile, che è un altro luogo in cui uno facilmente si lascia andare. Sì, quando la macchina è affittata... casa, praticamente. Quando la macchina è affittata, non è la nostra, quindi si può fare qualunque cosa. Sì. E come lasciano le macchine i suoi clienti? Noi, la nostra azienda ormai è leader nel settore, che noleggia auto di cortesia e lavora praticamente qui a Roma. Sì, ma non si faccia lo spot, mi dica condizioni... le schifezze che lasciano dentro, per questo mi interessa. Diciamo a partire da lattine, gomme da masticare... che le posso dire? Voi la consegnate pulita la macchina? Voi la macchina la consegnate pulita? No, naturalmente, perfetta, profumata, con la carta sotto i pedali, cose del genere, immagino. Sì, sì. Invece, in teoria, uno dovrebbe riconsegnarla nella stessa condizione? In teoria sì, noi sì. Nel momento in cui consegniamo una macchina dovrebbe essere riconsegnata più o meno decentemente, invece no. Comunque sì, dato che è un lato di cortesia e quindi usufruiscono di un servizio gratuito... Non è che se ne prendono cura come una propria auto. Ecco, si può fare una statistica delle nefandezze più evidenti che si lasciano le macchine? Cos'è che gli italiani lasciano come traccia organica o come residuo nelle automobili? Diciamo che la vettura quando rientra è un portacenere. La prima è la sigaretta. Cioè, la sigaretta? La prima traccia proprio. Cioè, fumano dentro proprio le vetture in maniera spropositata. Cioè. Va bene, prima i mozziconi di sigaretta, poi... Sì, e poi passiamo, ecco, come diciamo, da la macchina passa del tempo, insomma, si mangia, allora delle cartacce, queste cose qua sono la seconda cosa, quindi comunque se uno passa molto tempo, soprattutto a Roma, in macchina... Allora, tracce, diciamo, di consumazione di cibo, tracce di consumazione di fumo, e altre tracce? Altre tracce, diciamo, che sulla tappezzeria, ecco, viene riportato quello che poi alla fine... Il tempo che tu passi, la sporcizia in generale, come sacchetti, buste, abbiamo, che le posso dire? C'è chi una volta mi è ritornato con una cosa stupida, però sembra insomma brutta, che è il profilattico, cose del genere. Quindi anche quella è una traccia di consumazione, lasciano sì. In giro, mangiano, bevono, trombano dentro la macchina e lasciano tutte le esattamente. Parti. Va bene, Damiano, in bocca al lupo. Ma voi, scusate, fate notare queste cose al cliente o lui lascia la macchina, posa le chiavi e scappa via? Certamente, no, le facciamo notare. C'è gente che rimane lì, cioè, normale, quando tu glielo dici, magari non se l'aspetta. Ma no, se per assurdo, le suggerisco un sadico espediente, voi rimpacchettaste il tutto, compreso il preservativo, lo rimandaste al domicilio di chi ha affittato la macchina, magari dareste una bella lezione. Esattamente, sì. Cioè, ha lasciato questo in macchina. Va bene, la saluto, grazie Damiano. Sì. Viviana, buongiorno Viviana. Finalmente una donna che ha avuto il coraggio di sollevare la cortina di vergogna sulle schifezze maschili. Viviana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io volevo così raccontarvi un'esperienza che ho avuto qualche tempo fa con un uomo... decisamente importante, una persona, un manager, eccetera, che aveva un'igiene intima, a dir poco, scadente. E lei non se l'aspettava? Beh, no, decisamente no, anche perché uno... Esteriormente com'era? Era un uomo curato, con mani perfette, buon profumo, eccetera, ma decisamente era poco pulito nelle parti basse. Cioè non si lavava? No, un appello a tutti gli uomini, pensateci, come le donne si lavano, abbiamo decine di pubblicità sull'igiene intima femminile, ma anche gli uomini dovrebbero avere cura. Quindi gli uomini non hanno, dalla sua esperienza, lei ha soltanto avuto questo tipo di esperienza oppure ha, diciamo, una casistica un pochino più dettagliata? Comunque succede, non è successo solo a me, ho sentito anche le vostre amiche. Sì, ma cosa sì. Si dice in quel caso? Si dice con gentilezza vatti a scacciottare oppure si fa finta di niente? Facciamo una doccia insieme. Vabbè, doccia. Così lei si deve rilavare due volte anche se è pulita? No, decisamente in questo caso è stato un no. Un no perché non si può superare. Cioè lei ha avuto il coraggio di dire guarda fai schifo, sei zozzo, cosa del genere? No, in modo molto gentile, però gli ho spiegato che così che secondo me non era... Vabbè, una cosa da suicidio, un uomo che gli accade una cosa del genere dovrebbe secondo me farsi frate trappista e passare il resto della sua vita espiando la sua carne malandata. Esiste l'acqua, esiste il sapone, quindi voglio dire... Vabbè, Viviana, io la ringrazio, sono veramente lieto e onoro il suo coraggio di avere svelato ciò che nascondono le grisaglie di molti manager. Penso che questo mi procurerà veramente molti amici. Melog 2.0. Di solito i clienti più sporchi sono quelli con la buccia sotto al naso, quelli che vedi ben vestiti, sì, ordinati, la camicia. Una persona che magari vedi vestita in modo più pantaloni strappati, capelli rasti e tutto, però in camera pulito. Il cliente è così. Finora ho notato proprio questa cosa, che le persone, quelle ben vestite, parlano tutto in italiano, sai, le più sofisticate, rappresentanti, gli uomini tutti pipipipi, sono quelli là più sporchi. Le persone anziane sono quelle più ordinate, li coprono addirittura il letto, in bagno sono molto puliti, non lasciano niente in giro, anche se si ferma più di una notte, mettono tutta la roba al loro posto, non lasciano niente in giro. Diciamo che sono un pochino più nel privato loro, non vogliono far vedere, cioè, le proprie cose. Eh sì, perché sono quelli le cui madri hanno insegnato di mettere tutto in ordine, di pulire, di organizzare. Sono quelli che probabilmente hanno anche fatto il militare. Il militare è una grande scuola, non si fa più naturalmente, di follia domestica, di follia personale. Si passano settimane per imparare a piegare le due lenzuola, almeno si faceva, sotto la coperta e il materasso piegato, il cosiddetto cubo. Per fare il cubo, cioè come lasciare la branda, occorrevano almeno 2 settimane di car. 800 24 00 24, oggi parliamo delle tracce umane che lasciamo al nostro passaggio. Alcune ci segnano l'effettiva umanità dei nostri simili, altre ci lasciano sensazioni sgradevoli. Ma io faccio un appello ai professionisti che ogni giorno hanno a che fare con le tracce umane, le tintorie, quante tracce umane nella biancheria sporca delle persone, i negozi di calzature, quando le persone si tolgono la scarpa e porgono il piedino, com'è calzato questo piedino e com'è questo calzino, le palestre, gli spogliatoi. Quello che si vede negli spogliatoi è una traccia perfetta della ricerca di un fisico scultore, ma allo stesso tempo è di una carenza di alcune basilari norme di igiene. Al pronto soccorso, cosa non vedono i medici di pronto soccorso? Abbiamo Maria, che è una professionista. Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei fa la pedicure? Sì. Ne avrà di cose da raccontare? Guardi, la cosa più bella sotto questo aspetto della vostra trasmissione è di un signore 68enne, 70enne, bel tirato, in faccia una bella fonatura nei capelli. Io vado a domicilio, no? Questo qui mi porta direttamente in bagno. Deve mettere i piedi a bagno? Sì, mette i piedi a bagno. Mette i piedi a bagno e poi nel asciugargli i piedi, che di solito lo faccio io, devo fregare così energicamente per tirargli tutto via, quello che c'è mezzo alle dita, oh, sotto ai piedi. E poi lui mi guardava con una faccia un po' dolorante e io l'ho guardato. Devo continuare o faccio finta di non vedere? Lui mi ha detto continui. Ma scusa, è una perversione questa, perché uno che sa che viene la pedicura a casa si lava i piedi, è logico. No, guardi, io... È il minimo, scusi, anche se... Una persona anziana che non si può muovere, io che mi metto in ginocchio per terra e gli lavo i piedi. Se parla di una persona con dei problemi di disabilità è anche comprensibile, ma se poteva lavarsi i piedi da solo... La moglie non si è fatta proprio vedere, era di là a sentire la televisione e io con il marito in bagno a fregargli i piedi. Ma deve vedere, dalle ginocchia in giù aveva le croste sulle gambe. Vabbè, questo era un caso di disabile abbandonato, molto triste. Andiamo con persone che sono perfettamente in grado di mantenere l'igiene. Lei trova che ci sia una trascuratezza nelle zone che non si vedono subito? Sì, bravo, i piedi, in mezzo alle dita, lei non ha idea. No, la persona anziana, io lo so, ho fatto pure... Sì, ma lasci perdere gli anziani, scusi, no, perché gli anziani... Posso anche comprendere che abbiano delle difficoltà. Io lo faccio volentieri con gli anziani, è ovvio. Vabbè, lei ormai è diventato... Ma questo qui è un uomo che mi ha mandato un'altra persona, rispettabilissima, per amor di Dio. Però lei non ha idea. E poi dopo lui mi guardava e io gli ho detto, devo continuare? Lia, buongiorno. Buongiorno, non sono Lia, sono Livia, non ho capito male il mio nome. Chiamo da Roma, ho 52 anni, sono un funzionario regolarmente sposata, dico regolarmente sposata perché è la testimonianza di una persona normale che vive accanto a un uomo e da sempre rincorre un criterio di, diciamo, di decoro e di igiene anche normale, credo, per molte mogli con molti mariti. Quali... Andiamo al punto, non ho ben capito. Lei si lamenta di tracce organiche suo marito, dice suo marito è perfetto. Io mi lamento di tracce organiche in genere di tutti e tento di essere come quel signore alto. Ma suo marito lascia l'alone sulle lenzuola, tanto per capire. Lascia qualsiasi cosa, è una specie di selvaggio. È una specie di selvaggio che io da una vita rincorro negli alberghi e nel privato perché sia un po' meno selvaggio, non che non si lavi, ma è una eruzione di tracce organiche, ecco. Cioè andiamo, guardi, tanto questa mattina abbiamo detto di tutto, andiamo nello specifico. No, non mi faccia essere volgare. No, si può dire senza volgare, emette gas, questo vorrebbe dire. No, per carità di Dio. E allora quali sono? È semplicemente peli, unghie tagliate, cioè tutto quello che tranquillamente si attribuisce a una moglie anche nel privato e che fa l'effetto che fa la cameriera nell'albergo, le tracce di sconosciuti. Ma quanti anni sono, quanti anni sono che vi frequentate carnalmente? Tanti, perché nonostante questo poi c'è naturalmente dell'altro. Ma e del non buono. Trova, signora, non trova, signora, io mi ricordo, le faccio un esempio, da bambino non capivo mai... Mio nonno era un professore universitario, mia nonna era una delle prime donne laureate classe 1900, quindi livello non certo, livello culturale alto. Io ricordo ancora, erano gli anni 60, tutte le mattine mia nonna portava fuori dalla loro camera da letto il pitale con la pipì di mio nonno. E dice, ma perché il nonno stava benissimo, non esce e non va a farla del gabinetto? E capì che era una sorta di vassallaggio amoroso, ecco, trasformato... È vero, ma nel mio caso però non è un vassallaggio esclusivamente amoroso, è un vassallaggio di chi crede che a un certo punto un'educazione, seppur come dire, veniamo tutti e due da un ceto sociale, ma non perché si è elevato. No, abbiamo capito che non esiste cultura, non c'è un rapporto tra cultura, ceto sociale e igiene personale, questo esatto, l'abbiamo capito. Il problema è questo, allora, e questo io dico anche da parte delle donne, perché facendo una vita normale fra, come sosteneva anche lei, palestre, ambienti vari, anche a me capita di vedere. Massimo, buongiorno. Massimo. Allora, io faccio il chirurgo. Sì. E niente, quindi si può immaginare che noi abbiamo a che fare ogni giorno con tutto sommato il corpo di una persona. È chiaro. Ecco, l'ombelico, secondo me, è la parte che viene più trascurata dall'igiene della gente. Bene o male l'ombelico fa parte, è il centro di tutte le nostre cicatrici chirurgiche, siano le semi-invasive oppure interventi tradizionali. È la prima cicatrice che ci portiamo addosso. Esattamente. Ecco, dentro l'ombelico purtroppo la gente non si pulisce in genere. Ma guardi, lo sa che mi sorprende, dottore, perché oggi l'ombelico è talmente visibile in donne dai 9 ai 90 anni, è la prima cosa che mostrano rischiando la colite nelle stagioni rigide. Quindi io immaginavo che gli ombelichi fossero pulitissimi, sono pieni di... Ahimè no, nell'ombelico in genere si trova quello che si chiama, nella mia parte, il topo, che è un agglomerato di schifezze accumulate nel tempo, nella parte più profonda dell'ombelico, che noi dobbiamo togliere ogni volta prima di iniziare. Ma esiste un ferro chirurgico apposta, lo stopatore? Assolutamente no, una banale garzettina con cui prima di iniziare, quasi è proprio un tempo dell'intervento spesso, prima di iniziare l'intervento andiamo a pulire in profondità l'ombelico tirando fuori quello che c'è dentro. Quindi io invito la gente a lavarsi l'ombelico almeno prima di andare a fare. Detto da un chirurgo mi sembra un rimedio e una prevenzione utile, perlomeno a non perdere tempo quando uno deve togliersi, non so, una scheggia di proiettile da una coscia. Se il chirurgo perde tempo a togliervi il topo dall'ombelico, rischiate di morire dissanguati. In camera, quando ci sono le coppie, troviamo i pacchettini regalo sul comodino. Dopo aver fatto quello che fanno, lo lasciano sul comodino come una mancia. Lasciano i preservativi, i giochini che usano, tipo i preservativi, ho visto un preservativo, quello di quelli là che vibravano, giochini che fusano comunque, oggetti di quelli che vendono anche sex shop, cioè li hanno anche lasciati. Questa era la cameriera Anna, che va anche oltre alle tracce organiche, anche gadget di vario tipo, che sempre sono usati o impregnati o associati comunque alle tracce organiche, addirittura l'innominabile anello vibrante lasciato in albergo. Chissà perché c'è tanta fretta e tanta perizia nel cancellare le tracce organiche di rapporti eterodossi o adulterini, ma in albergo si pensa che si possa lasciare ogni cosa, perché le cameriere non hanno occhi, non hanno orecchie. Ma come sentirete tra qualche istante dopo questa breve pausa, non è esattamente così. Ti racconto che ho comprato scarpe nuove col tacco e poi alla fine però me le sfilo e stacco da sotto la cacca del cane che ho prestato in strada per guardare le altane. Capita, questa è una traccia organica non certo umana, ma molte volte si vede una donna bellissima, elegantissima, acchittatissima, avvolta dal proprio profumo, dai propri belletti, ma non si accorta mai che ha pestato qualcosa per strada e dà un segno forte del suo passaggio. Abbiamo Michele da Bergamo. Michele, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Niente, come la, secondo me la sporchezza è un fatto esclusivamente mentale, no? È una società rozza, una società in cui si ha fretta, no? E mentre la mente ha fretta ha bisogno di espellere immediatamente per passare oltre, e quindi non ci si cura di quello che si lascia in giro. Io, come ti ho scritto anche su Facebook, il peggio, quello che mi fa veramente più schifo, quando entri in un bagno e vedi questi schitti, no? Questi sono signori che oramai hanno dimenticato che la mira non ce l'hanno più e si rifiutano di sedersi. Quindi vedi che è fatto proprio di educazione. Che ti quindi viene lei fatto. È della scuola che gli uomini si dovrebbero sedere a una certa età? Sì, sì, sì, ma gli uomini dovrebbero sedersi già a 18 anni, perché a 18 anni già la mira va da tutte le parti. Ci sono varie scuole di pensiero, non vorrei entrare nei particolari, perché anche seduti poi sorgono altri problemi. Però so che esistono tante scuole di pensiero, però diciamo che di fatto è un fatto mentale, no? Se io ho rispetto di me stesso, mi lavo, mi pulisco. E poi c'è anche un altro particolare che va notato. Beh, questo è il motivo della famosa disputa fra Lagardini e Luxuria sui gabinetti del Parlamento, lei si ricorda? Ma ognuno pensa che la propria schifezza non è così schifosa, poi quella degli altri che fa schifo. La propria invece è santa, perché la propria urina, scusa se entro in un linguaggio un po' più terra-terra, se ognuno si tocca la sua, non gli fa così schifo. Sì, diciamo che sono anche le mamme che ci hanno abituato sin da bambini, quando ci hanno la pupù santa del mio bambino, sono sempre abituati che la nostra meravigliosa e quella degli altri invece dovrebbe far sempre senso. Quella degli altri invece fa schifo. Invece però ha sentito, i mariti infliggono alle mogli le proprie unghie tagliate, infliggono alle mogli il dovere di dover pulire i peli dal lavandino, le signore in fondo hanno questa sorta di senso di possesso e quasi ilare vezzeggiamento di avere dei mariti zozzoni. Sentiamo adesso da Pavia, Elena, scusi, mi hanno scritto male. Buongiorno Elena. Buongiorno, senta, non è che riguarda soltanto gli anziani, perché io lavoro in un'azienda dove i colleghi sono tutti sui 30-40 anni. Ci sono due bagni, uno per le donne e uno per gli uomini. Spesso però gli uomini trovano il loro occupato, sono un po' di più di noi, e vengono nel nostro. Ecco, la cosa che veramente ci dà un fastidio è che dobbiamo poi noi pulire il bagno, perché loro urinano in piedi, bagnano il bordo del vate, spruzzano per terra e poi non tirano l'acqua. Ecco, io siccome li abbiamo anche già individuati chi sono, cioè, noi donne ci siamo messi d'accordo che usciamo nel corridoio quando succede e cominciamo a dire ma che schifo che è stato, alla fine abbiamo anche capito chi è. Scusate, ma fate dei cartelli e indicate. Esatto, lascia il posto migliore, cioè tutto, abbiamo scritto di tutto. Indicate il lordatore, ma lo sa, molte volte, le dico un aspetto deleterio della psicologia maschile, alcuni uomini lo fanno quasi volontariamente per segnare il territorio e per dare impressione alle donne di avere delle virilità così smisurate da non riuscire nemmeno a contenerle in quell'atto. È vero, perché l'ho sentita dire questa cosa. Noi abbiamo addirittura minacciato di chiamare a casa le loro mogli e dirgli che cosa fanno a casa loro, perché se uno lo fa in azienda dove ci sono delle donne, le cose. Ma perché non lo fate? Perché non vi ribellate? Perché oltre che dirlo alla radio, sarebbe bene che qualcuno prendesse le iniziative in questa direzione. Io mi rendo conto, la mia testa cadrà per trasmissioni come queste, ma mi sento sollevato comunque dalla responsabilità di dire schifezze, perché vedo ci sono dei problemi sotterranei legati alla gestione del corpo che non sono stati mai risolti e di cui non si parla mai. Gigi, buongiorno. Gigi è svenuto, si è autosegato. Paolo, c'è Gigi? Gigi, dove è andato? Basta, io non lo chiamo. Paolo. Ah, Paolo, non so perché mi scrivono Gigi. Vabbè, parli Paolo, lo stesso. Niente, volevo... Da Modena. Sì, perfetto. Volevo dire due cose. Uno, quella degli alberghi, io giro molto in albergo, secondo me è più una questione di rispetto per chi viene dopo a pulire, lasciare pulito. Io credo di lasciare abbastanza pulito perché non voglio rendere più facile il lavoro di chi viene a pulire dopo che io sono entrato in albergo. Ma la mia telefonata era sul... non mi meraviglia più la sportiva. Le posso dire, ci sono delle scuole per manager che suggeriscono che se un uomo di rispetto va durante un meeting, va nel bagno del luogo del meeting e trova sporco, deve pulire anche se non è stato lui a sporcare, perché uno non sospetti alla sua uscita che sia stato lui a sporcare. A me è successo di pulire il bagno di una mia amica, lei aveva le mestruazioni, probabilmente non aveva pulito il bagno, si era dimenticata, io sono entrata nel bagno, ho trovato il water pieno di sangue, sono stato talmente imbarazzato pensando all'imbarazzo che poteva avere lei se lasciavo così che gli ho pulito il bagno io. Mi è successa anche questa, ma la mia telefonata riguardava i frigoriferi. Sì, benissimo. Io ho trovato delle cose, a volte aprendo i frigoriferi di persone che abitualmente frequento, ho trovato di tutto, stracchini trasformati in gorgonzola. Degli obitori praticamente. Sì, delle puzze che uscivano, delle cose incredibili, ma quello che poi mi meraviglia è che poi mangiamo. Quindi anche, no, perché noi ci siamo facilmente soffermati sul bagno, che è il ricettacolo più classico delle schifezze, delle tracce corporee. Ma anche dal frigo si capisce il senso di igiene e di pulizia di una persona, quindi ha ragione. E poi quando lei va, provi a pensare, quando lei va in un ristorante, Nicoletti, provi a guardare le spugne che usano per pulire i lavandini. Guardi, le faccio subito rispondere da Antonella. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Lei lavora in un ristorante? Io ho un ristorante. Ecco, perfetto. Allora, ha sentito il suo collega in quanto ascoltatore? Io ho capito vagamente a proposito delle Lui spugne. Ha detto che fate schifo, le spugne che usate per lavare i piatti sono orrende. Ma forse no, forse si sbaglia, è stato nei ristoranti che non usano prodotti disinfettanti. Lei usa spugne pulite? Noi usiamo spugne pulite, tutte le sere le mettiamo nel batterico, quindi abbiamo, addirittura non penso che tanti ristoranti puliscano le maniglie dei bagni e della porta come le puniamo noi. Quindi mi sembra un po' strano, se fossi magari... Va bene, non dica allora la sua esperienza come ristoratrice. Le persone che anche più ben educate, più ben vestite o qualsiasi tipo di persone lasciano le peggiori schifezze, sia nei piatti, sia sulle tovaglie, per non parlare dei bagni che ci fanno di tutto, non tirano mai sciacquone, non puliscono proprio, non hanno il senso della decenza. Lei mi conferma un dato che emerge da tutte le telefonate. Non esiste, lo ripeto, un rapporto diretto tra l'aspetto esteriore e l'educazione e l'igiene. Assolutamente. Quindi tante volte le persone che apparentemente sembrano splendide in realtà sono i peggiori lordatori. Antonio, buongiorno Antonio. Buongiorno, io faccio l'autista di autobus a Milano e praticamente sull'autobus si trova di tutto, dalle cose importanti che sono documenti, dichiarazione dei redditi, documenti della banca, le cose più... si lasciano di tutto, cellulari, ombrelli. Ma la sporcizia degli autobus, non sempre sono pulitissimi, noi ce la prendiamo con le società che gestiscono gli autobus, ma lei individua una particolare tendenza a lasciare tracce personali anche sugli autobus? Sì, in generale, perché è vero che magari sarebbe responsabilità di chi pulisce gli autobus, però... Vabbè, la prima regola della pulizia è quella di non sporcare, però quando si trova di tutto, cioè la gente che vomita al sangue, chiazze di sangue sul pavimento, a me è capitato, oppure cose tipo il pacchetto del panino di McDonald's, la carta, giornali, il bicchiere della Coca-Cola, tutte cose di questo genere. Bene, io la saluto, la ringrazio che siamo arrivati a fine di questa trasmissione. A me per alcuni sensi sarà sembrata pesante e fastidiosa, ma per altri sensi forse riflettere anche su quelle che sono le tracce che lasciamo di noi stessi, non quelle invisibili, non quelle segrete, non quelle affidate a bitte, a tracce digitali, ma semplicemente al nostro vecchio e caro corpaccione, forse sarà valsa la pena e forse migliorerà un pochino le abitudini di tanti. A domani. Melog 2.0. 2.0.